pesava quello zaino sulle spalle per la strada della scuola e la maturità. Odiavo ogni professore, mi illudevo fosse una minaccia alla mia libertà. Ed ogni sera sopra lo schermo vedevo eroi della mia età. E io di certo ero diverso, ma ci credevo in una vita come al cinema. Ma qui non è così. Non c'è il lieto fine, poi il buono perde. I tatuaggi fanno male anni dopo che li hai fatti, ma per quello che ricordano. Hai visto amici andarsene prima del tempo e sei sicuro che dall'alto ti proteggano. Intanto aspetti il colpo di scena, quell'occasione unica che ti sistema ogni problema e lei che ti completerà. Ma qui non è così. La trama inconsistente, l'amore non è mai per sempre. Lei diceva, non lo so. E dopo mi stringeva forte ancora un po'. E diceva di non prenderla così. Nasce, cresce, poi finisce. E se tradisce, ti sarà chiaro che la vita non è un film. Generazione muova una rivoluzione immaginaria. Doveva essere un tramonto il bene in trionfo alla fine della storia. Ma qui non è così. L'immagine è un po' scura, il domani fa un po' più paura. Lei diceva, non lo so. E dopo mi stringeva forte ancora un po'. E diceva di non prenderla così. Nasce, cresce, poi finisce. E se tradisce, ti sarà chiaro che la vita non è un film. Ma lei diceva, non lo so. E dopo mi stringeva forte ancora un po'. E diceva di non prenderla così. Nasce, cresce, poi finisce. E se tradisce, ti sarà chiaro che la vita non è un film.